gente, gente di Roma, Roma, Roma. Gente, gente di Roma, Roma. So many always shining, you feel the weather so fine. If you're looking for love, you can realize stare these Romans in their pink brown eyes. One night stand is a special feeling, there's no more time for goodbyes. Hey, hey, gente di Roma, e sono hero di ragazzi di tu. E li amo a tempo di forse di Roma, la dolce vita è gente di più, è gente di più. Days of desire, the magic and sky is shining bright. These pretty faces, you taste the heat of the night. Everybody's in love with someone, I see the fire is burning in your eyes. Come with me to enchanted land now, for this night will never die. Hey, gente di Roma, e sono hero di ragazzi di tu. E li amo a tempo di forse di Roma, la dolce vita è gente di più, è gente di più. Gente, gente di Roma, Roma, Roma. Gente, gente di Roma, Roma, Roma. Gente, gente di Roma, di Roma. Gente, gente di Roma, Roma. Buongiorno ragazzi e ragazzi, siamo qua vicino a Roma e sentiamo la musica nuova da Digitalia. If you leave Roma, in your heart you will never be the same. This town is too far, no feeling drives you insane. Spread your wings to come back next summer, you're dreaming of this place all the time. True intention to stay forever, but sweet love, you will be mine. Ciao, ciao, gente di Roma, e sono hero di ragazzi di tu. E li amo tempo di forse di Roma, la dolce vita è gente di più, è gente di più. Sono hero di ragazzi di tu. E li amo a tempo di forse di Roma, la dolce vita è gente di più, è gente di... Ciao, ciao, gente di Roma, e sono hero di ragazzi di tu. E li amo a tempo di forse di Roma, la dolce vita è gente...